Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Un saluto a Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, come sempre a Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Dolore alla spalla, caccia al colpevole. Giocattoli, parola d'ordine, sicurezza. Il profumo del Natale. Come, quando e perché la nostra spalla va KO? Questo è il tema della puntata di oggi. L'obiettivo è di capire insieme quali sono le cause che portano la nostra spalla ad essere dolorante, ad andare fuori posto, ad avere difficoltà nel movimento. Vedremo cosa capita all'interno della spalla, quali sono le strutture che possono essere danneggiate e soprattutto in quali casi è possibile risolvere la situazione con la fisioterapia e quando invece è necessario, ahimè, affidarsi al chirurgo. E per questo doppio obiettivo ho in studio due esperti. È tornato a trovarci il dottor Gianluca Mellegatti, che è responsabile del centro di riabilitazione sportiva all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Ne vede di spalle? Eh? Sì, decisamente sì. Perché i rugbisti hanno questo fisico da bronzo di Riace e poi si fa male. Eh sì, soprattutto alla spalla. E qua in studio con me abbiamo anche il dottor Roberto Leo, che è chirurgo ortopedico al Gaetano Pini di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace perché, scusi, mi è scappato. Ho detto subito, noi dobbiamo, ahimè, rivolgerci al chirurgo. E a volte il chirurgo diventa importante quando ci sono lesioni strutturali alla spalla, adesso ne parleremo durante il corso della trasmissione, per cui indubbiamente il ruolo del chirurgo... Sì, no, nessuno vorrebbe mai finire sotto i ferri, ma ogni tanto nessuno, tocca. Certo. Anche perché la spalla, dottor Leo, è l'articolazione più mobile del corpo umano e per questo è anche l'articolazione anche meno stabile, quindi anche più a rischio di traumi, incidenti. Direi che forse meno stabile non è proprio corretto, è un'articolazione a rischio di instabilità, in particolare posture legate a gesti sportivi, in particolare traumi da cadute o quant'altro, però diciamo che è un'articolazione a rischio di instabilità, al contrario di altre articolazioni come l'anca, dove l'instabilità è un fenomeno da trauma ad alta energia e ovviamente non è certa la problematica. La spalla ha un problema di instabilità piuttosto frequente. 800 24 0024, se vi sta a cuore la salute delle vostre spalle, 349 238 6666. Dottor Mellegatti, quando ci troviamo di fronte a un caso di dolore alla spalla, viene da chiederci se può essere un dolore di origine muscoloscheletrico o invece un dolore che arriva alla spalla partendo da un'altra sede. È così? Sì, nella maggior parte dei casi il dolore è di origine muscoloscheletrica. Esistono delle strutture all'interno della spalla che sono molto sensibili ai traumi e a situazioni da sovraccarico e possono dare dolore, ma esistono anche dei dolori, diciamo, su base radicolare neurologica, magari a partenza dal rachide cervicale, quindi dolori riferiti che non sono proprio che non partono proprio dalle strutture muscoloscheletriche della spalla. Allora, con l'aiuto della nostra scheda proviamo a riordinare le idee, sentiamola e poi la commenteremo insieme. Andiamo. La spalla ti fa male solo quando ti muovi o anche se stai fermo? C'è un movimento in particolare che ti fa vedere le stelle? Il dolore si accentua muovendo il capo o il collo? Di notte generalmente si calma o al contrario peggiora tanto da tenerti sveglio? Se in questo momento la tua spalla ti fa male, cerca di capire se il dolore è fisso o si irradia. Allora, se volete rispondere a queste domande, volete farlo al nostro numero verde 800 24 0024. Noi siamo qui, ma aggiungerei la variabile età, dottor Leo, perché ci sono le età della spalla. Indubbiamente, è vero, ci sono le età della spalla. Generalmente possiamo affermare che nella giovane età la problematica dell'instabilità è la più frequente, ma non dimentichiamo anche che lo sport può produrre delle tendiniti piuttosto fastidiose anche nei giovani e generalmente nell'età un pochino più avanzata il problema degenerativo, quindi il problema tendineo, è un pochettino più frequente e meno frequente il problema di instabilità. Quindi più il dolore, diciamo, nella seconda parte. Allora, quindi, dottor Mellegatti, abbiamo due grandi capitoli che affronteremo oggi, no? L'instabilità e il dolore. E il dolore. L'instabilità in genere è causata da una insufficiente tenuta delle strutture capsulari e legamentose, mentre il dolore in genere è provocato non solamente ma soprattutto da una patologia della cuffia dei rotatori, che è una struttura particolare di grandissima importanza per la normale biomeccanica della spalla, che è una sorta di manicotto tendineo che avvolge la testa dell'omero, vale a dire una struttura importante della spalla. Questa struttura tendinea può andare incontro a un sovraccarico, si può consumare e può sviluppare una situazione di tendinite, molto spesso dolorosa. Cuffia dei rotatori, già il nome, eh? Proprio. 800 24 0024, aspettiamo le vostre chiamate, i vostri dubbi, se avete già eseguito un intervento, se state facendo riabilitazione e fisioterapia, chiamateci, raccontateci, insomma, come sta andando la vostra spalla. Una mela al giorno. Non poteva mancare in questo periodo una telefonata al nostro dottor Antonino Reale, che è responsabile di pediatria dell'emergenza del Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dottore. A voi. Io quando la sento penso sempre al Natale, perché con lei, vero? Puntualmente parliamo di sicurezza dei regali per i bambini. Questo è un anno un po' di crisi, per cui viene naturale, no, cercare di risparmiare, ma il nostro appello è un regalo in meno, ma un regalo a vantaggio della sicurezza. Sì, innanzitutto io voglio ringraziare, come ogni anno, per la partecipazione alla nostra campagna sulla sicurezza del giocattolo. E anche quest'anno, in periodo di austerity, il nostro motto sarà austerity sì, ma senza risparmiare sulla sicurezza. Come lei ha già detto, è un momento un po' di crisi economica, per cui stiamo attenti alle spese tutti, ma soprattutto non risparmiamo sul giocattolo sicuro. Un giocattolo di meno, ma un giocattolo comprato in modo adeguato, nei posti adeguati, con le norme di sicurezza adeguate. Questo è il nostro consiglio che diamo. A questo proposito voglio ricordare quali sono le normative così da cui attenersi per cercare di prendere un giocattolo per i nostri bambini che non possa rappresentare un pericolo. Ripetiamolo un attimo insieme: comprarlo innanzitutto in negozi autorizzati, state attenti alle bancarelle, che molti sono giocattoli di scarsa qualità presi in Oriente, nel Estremo Oriente. Comprare giocattoli che presentino il marchio CE, rilasciato dall'Istituto Italiano della Sicurezza dei Giocattoli, che abbiano le istruzioni in italiano, che ci sia il nome del distributore. E soprattutto facciamo molta attenzione che sia un giocattolo adeguato all'età del bambino a cui viene proposto. Ricordatevi in particolare che sotto i 36 mesi di vita esiste un estremo rischio di ingestione o ancor peggio di inalazione, cioè passaggio nei vie respiratori, di piccoli pezzetti del giocattolo che possono anche soffocare il bambino. Queste sono le cose così più importanti che voglio ricordare. Ancora possiamo dire di stare attenti alle parti che si smontano facilmente, pezzetti piccolini, facciamo l'esempio delle orecchie dell'orsetto, del nasino dell'orsetto, e ancora giochi che possono dare luogo a ferite, perché non sono fatte a norma di legge, sono taglienti o appuntite. Più raramente abbiamo visto qui in pronto soccorso ingestioni di pile alcaline, quelle piccoline che tutti conosciamo, che possono causare lesioni da caustici. Ecco, bisogna avere mille occhi, soprattutto in quelle famiglie in cui ci sono più bambini e quindi ci sono anche giocattoli, circolano giocattoli per varie fasce d'età, e i più piccoli, sappiamo, sono sempre molto desiderosi di impossessarsi dei giocattoli dei fratelli più grandi. Bravissimo, questo è quello che dice, molto corretto. Quando ci sono più figli o festiccioli in cui tutti i bambini socializzano con i vari giocattoli, ovviamente questo discorso dell'età può saltare, per cui se i genitori non vigilano, perché comunque devono sempre vigilare, può accadere che il bambino di 2-3 anni possa smontare un giocattolo di un bambino, del fratellino più grande, o addirittura un trenino elettrico che ha corrente elettrica o il piccolo chimico, quindi sostanze che possono essere nocive per il bambino. Quindi ricordiamoci che il giocattolo non è mai un momento a Natale per mettere i bambini in una stanza e chiudere la porta e buttare la chiave e giocare a baccarà o a 7:30 a tombola, ma è un momento sempre di condivisione col genitore, del momento ludico, del momento del gioco. Quindi l'esperienza va condivisa con i genitori. Ecco, montate la guardia se avete dei bambini piccoli. Dottore, la ringrazio. Grazie a voi per l'aiuto che ci date. Buona giornata. Buona giornata. giornata, buon Natale. Pronto soccorso. E dai giocattoli passiamo alla nostra spalla, qua in studio con me il dottor Leo e il dottor Melegatti. Ripartirei, se siete d'accordo, dalla nostra scheda per dare indicazioni in base alle risposte dei nostri ascoltatori, che sono state sollecitate dalle nostre domande. Risalire dal dolore, dal sintomo, andiamo a cercare di individuare la struttura responsabile. Allora, dottor Melegatti, se il dolore appare con il movimento, la spalla, cioè mi fa male, ad esempio se sollevo un peso, alzo un braccio, infilo la giacca oppure ruoto la spalla, i movimenti possono essere tanti perché la spalla si muove a 360 gradi, no? Quasi. Assolutamente, sì. Su tre piani è una spalla che ha un movimento tridimensionale. In effetti quello che lei dice è corretto e in genere ci mette sulla strada giusta quando noi chiediamo al paziente ma in che occasione le fa male la spalla. In genere ci dicono ci fa male quando afferriamo un peso o la borsetta dal sedile posteriore dell'auto, sì, oppure ci infiliamo la giacca, e questo ci mette sulla strada per considerare una patologia della cuffia dei rotatori, quindi una tendinopatia della cuffia dei rotatori, che può essere interessante questa cuffia o da una semplice tendinite o anche da una lesione della cuffia. E, in genere questo ci fa capire che non si tratta di un problema legamentoso, ma in genere un problema della cuffia, come le dicevo. Dottor Leo, tocca a lei. Se invece io le dicessi il dolore mi arriva spontaneo senza che faccia nulla di particolare, quale parte della spalla allora lei chiamerebbe in causa? Chiamerei ancora in causa i tendini della cuffia, e in particolare con un dolore diciamo senza che insorge anche a riposo, penserei in prima istanza alla presenza di una calcificazione, che è una patologia piuttosto frequente, o comunque una semplice tendinite, come diceva il dottor Melegatti, può dare dolore anche cosiddetto a riposo. E quindi ancora una volta chiamiamo in causa i tendini. Dottor Melegatti, abbiamo messo nella nostra scheda se il dolore si accentua muovendo il capo o il collo. Questo vi dà un'indicazione ulteriore? Sì, in casi più rari possiamo essere orientati nel considerare un problema radicolare, vale a dire una patologia a partenza, cioè causata dalla disfunzione del rachide cervicale, la classica radicolopatia, però sono evenienze queste più rare. Andrei a Roma perché c'è Mauro che ci ha chiamato all'824-0024. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si lamenti pure, Mauro, della sua spalla. Non mi lamento. Senta, io ho un problema. Durante l'arco della giornata, quando il braccio è a riposo nella tasca, così, non ho dolori. Mentre invece durante l'arco della notte ho sempre dolori sul braccio sinistro. Non so come metterlo durante la notte, ecco, non riesco a trovare posizione. Ha fatto già qualcosa? Sì, mi dica. No, non ho fatto nulla. Soltanto durante la notte ho questi dolori, durante il giorno invece sto benissimo. Allora, possiamo dire che il dolore notturno, e ne avremo parlato fra poco, in effetti è una situazione piuttosto tipica della spalla. Il paziente spesso lamenta dolore di notte, dolore che aumenta di notte, tanto che una delle valutazioni che noi facciamo a livello clinico, chiediamo al paziente ha dolore di notte, questo per dare proprio importanza a questo sintomo. Però il fatto che il paziente ci riferisce che non ha dolore durante il giorno, durante il movimento, ci fa pensare ad una forma per adesso cosiddetta subacuta. Chiamerei ancora in causa i tendini di cui abbiamo parlato finora, insomma, qualche indagine però è da fare, ecco, indubbiamente. Però, dottor Melegatti, Mauro, che non ha ancora fatto nulla, ma si sveglia la notte per il dolore, quindi notte dopo notte, poi la spalla diventa veramente un problema serio. Quali sono le indagini che dovrebbe fare Mauro, e soprattutto potrebbe la fisioterapia aiutarlo a spegnere questo dolore? Assolutamente sì, non solo la fisioterapia, magari anche qualche buon farmaco mirato. Gli esami che io consiglierei di fare al signor Mauro sono innanzitutto una radiografia, una semplice lastra della spalla per valutare la presenza di una calcificazione, perché è probabile che lui possa avere una tendinopatia calcifica, vale a dire la formazione di un deposito di sali di calcio all'interno del tendine. E poi chiederei un'ecografia. Con questi due esami siamo perfettamente in grado di stabilire il tipo di patologia e anche instaurare un programma terapeutico. Allora, spalla che scricchiola da anni, si può rimettere a nuovo? Ci chiede un ascoltatore, dottor Leo. Ma insomma è abbastanza vaga come richiesta. La palla scricchiola, bisogna capire perché scricchiola. Il chirurgo mette a posto ciò che è strutturalmente danneggiato, non mette a posto lo scricchiolio, verosimilmente legato magari a leggere problematiche cartilagine o tendine. Quindi bisogna fare una diagnosi precisa, capire qual è la lesione strutturale, se c'è, altrimenti il riabilitatore ha un ruolo fondamentale in queste spalle. Dottor Melegatti, vediamo se può aiutare Giorgia che ci scrive. Calcificazioni a tutte e due le spalle. Giorgia, tra l'altro, ci scrive che fa la restauratrice di dipinti, quindi le braccia le usa, certo. Le usa e poi va di fino e ha un dolore fortissimo. Che cosa si può fare e perché si formano queste calcificazioni? Ma, domanda da mille punti. È molto difficile poterle dare una risposta esauriente e ci sono molte teorie. Innanzitutto una situazione può essere quella di persone che utilizzano le spalle in maniera importante, come per esempio questa signora, perché facendo la restauratrice lei è abituata a utilizzare la mano, ha bisogno di spostare la mano nello spazio e per fare questo ha bisogno anche di una mobilità della spalla. Certo. Quindi le calcificazioni possono essere un problema importante, possono diventare un problema serio, tale da restringere il normale movimento della spalla e portare il paziente, se trascurato, anche a una situazione molto fastidiosa di limitazione del movimento e di dolore. Una cosa che consiglierei alla signora, se non è stato fatto, è cercare di individuare il tipo e la dimensione della calcificazione con una semplice radiografia o con un'ecografia e poi istituire un ciclo di onde d'urto extracorporee, perché è in questo momento la terapia di elezione per le calcificazioni di spalla. Luciano ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare di un piccolo problema, sono un camionista, premesso che sono un camionista. Sì. Spalla a volte le usiamo anche, ci sono macchine moderne, però ogni tanto succede. 4-5 anni fa ho avuto come una lacerazione, come un dolore alla spalla sinistra. Sono a farmi delle lastre, radiografie, e è venuto fuori che ho una lacerazione dal tendine sopra il gomito, tra il gomito e la spalla, di un centimetro e mezzo. Sì. Io durante il giorno vado abbastanza bene. La sera, quando mi corico nel letto, dopo 5 minuti, ovviamente mi dico: arrivano i cani, perché mi sento come tanti denti che entrano nel braccio. Ha spiegato bene, Luciano, il suo dolore, proprio un dolore che morde. Che morde. Io adesso non so se da intervento chirurgico oppure ci sono delle terapie, perché io quando sono in vacanza, che sto abbastanza fermo, il dolore anche la notte mi svanisce. Insomma, i cani vanno altrove. Allora, la spalla ci dà spesso appuntamento di notte, dottor Leo. È il caso anche di Luciano, il secondo ascoltatore, che sottolinea questo sintomo proprio che si presenta a riposo. Quindi è vero, ancora una volta l'importanza della notte viene fuori. Il paziente ci parla di una lesione strutturale, ci parla di una lacerazione, ci ha parlato, a dire il vero, di una radiografia. Probabilmente ha fatto un'ecografia per avere o forse addirittura una risonanza per avere una diagnosi di lacerazione. Comunque un paziente in età attiva, un paziente attivo come il signore che ci ha telefonato, che ha una lesione, sembrerebbe strutturale, cioè una lacerazione tendinea, se confermata con un esame, che oggi l'ecografia sicuramente è l'esame di prima scelta, come il dottor Melegatti ha detto, però se l'ecografia ci dà una lesione strutturale, quindi una lacerazione, e viene confermata da un esame di secondo livello, una risonanza magnetica, a quel punto l'indicazione chirurgica c'è. E quindi passiamo in mano, ahimè, al chirurgo. A noi. È un intervento che fate in artroscopia, sì, che ormai rimette la spalla nuovo, è un interventino o un interventone? No, non possiamo dire che sia un interventone, lo facciamo ormai con le tecniche endoscopiche da diversi anni. La spalla ha seguito quello che è stato in passato il ginocchio, che ormai è assolutamente endoscopico per quanto riguarda le ricostruzioni legamentose, ormai anche la ricostruzione di cuffia, e nel caso della spalla instabile lo facciamo tranquillamente in endoscopia, così come anni fa lo facevamo a cielo aperto, ma ormai le tecniche endoscopiche. Ne parleremo di questo, certo, per capire se ci sono delle novità in sala operatoria. Ma dottor Leo, la spalla spalla torna nuova? O... Ha fatto una bellissima domanda. La spalla torna nuova. Io dico ai pazienti che dopo che c'è stata una lesione strutturale, il chirurgo non può mai dare in tutta onestà una spalla nuova, o per nuova si intende anatomicamente perfetta. Diciamo funzionalmente buona, se non ottima. È diverso. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, mi piacciono queste campanelline. A voi 800 24 00 24, se volete parlare con noi della vostra spalla, che può essere dolorante ma che può uscire anche di posto. Dottor Melegatti, succede, ci sono delle persone che si rimettono da sole la spalla a posto, e questo può capitare anche diverse volte, ci prendono la mano, insomma. Sì, in effetti sì, si abituano a rimettersi a posto la spalla dopo magari un primo episodio traumatico, a seguito del quale non sono in grado naturalmente di ridursi la spalla da soli, allora magari vanno in pronto soccorso, però poi il trattamento non viene fatto in modo adeguato e la spalla rimane instabile, e questo può portare, a seguito di traumi minori o maggiori o anche a movimenti banali, perché c'è gente che si lussa la spalla mettendo il braccio sotto il cuscino dormendo e si accorge di avere la spalla lussata. Questi sono quelli che hanno una forte instabilità. Allora, questo può portare veramente a questa instabilità che, se non viene trattata, può sfociare in problemi ancora più seri. Ecco, ma non viene, lei mi dice, se non viene trattata, sì, come si tratta? Allora, innanzitutto il primo episodio di lussazione traumatica di un giovane va trattata in maniera un po' aggressiva, vale a dire, ci sono correnti di pensieri addirittura che optano per l'intervento chirurgico immediato in soggetti sportivi che utilizzano la spalla in maniera importante, come lanciatori oppure come i portieri di calcio o come anche giocatori di rugby. Un'altra corrente di pensiero un po' più conservativa prevede l'immobilizzazione di questa spalla, immobilizzazione che deve essere tanto più lunga quanto minore è l'età del soggetto. Ho capito. Soggetto giovane, immobilizzazione più prolungata, soggetto più anziano, 50, 60, 70 anni, immobilizzazione ridotta per evitare il problema della rigidità. Quindi questo è il primo episodio. Va curata bene, subito, o in modo conservativo o chirurgico, va curata bene, e se si decide per l'intervento conservativo, cioè per l'immobilizzazione, deve essere una immobilizzazione moderna. Ci sono anche qui correnti di pensiero che preferiscono una immobilizzazione col braccio neutro piuttosto che con la mano attaccata al torace, col classico fascione di una volta, però poi questa va fatta seguire a una rieducazione molto buona, molto completa, che preveda il recupero della mobilità ma anche e soprattutto della forza dei muscoli che sono deputati a mantenere la spalla al suo posto. Andiamo a Ilario, ci chiama dalla provincia di Fermo. Ilario, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, le vorrei esporre il problema. Ho da molto tempo un dolore alla spalla destra. Premetto che io faccio un lavoro che adopero in continuazione la spalla destra. Cosa fa? C'ho un pub a Porto San Giorgio, quindi spillare la birra o cucinare certo. Un movimento continuo, proprio è incredibile. Vabbè, comunque, a parte questa qui, ho fatto una laser terapia perché dall'ecografia che mi ha fatto un dottore non risultava nulla dal dolore che io ho costantemente tutto il giorno, proprio. Poi ho fatto recentemente una lastra ed è risultata una calcificazione ossea. Sì. La mia domanda è questa: si guarisce dalla calcificazione ossea? Perché effettivamente io non ce la faccio più, la notte non si dorme, di giorno... Dottor Leo, l'abbiamo già accennato in parte il discorso della calcificazione, abbiamo chiesto anche al dottor Melegatti perché la risposta non è facile, ma Ilario ha bisogno di un consiglio. Si guarisce? Che cosa si può fare? Allora, direi che si guarisce sicuramente, però il problema è prima di tutto limitare i sintomi, se non annullarli. Guarire fisicamente dalla calcificazione, che cos'è la calcificazione? Un deposito di sali di calcio all'interno del contesto del tendine, di uno dei tendini della cuffia, solitamente, non sempre ma nella maggior parte dei casi sovraspinoso. Comunque è una malattia evolutiva, ha una fase di crescita, ha una fase matura dove fa male, come il paziente ci ha ben raccontato e anche peraltro altri pazienti, e poi una fase di involuzione, può durare diversi anni. Il nostro compito è nel minor tempo possibile cercare di dare al paziente un benessere in poche settimane. Sì. Come? Sicuramente la riabilitazione ha una parte fondamentale, il dottor Melegatti accennava a questa moderna terapia, moderna ormai c'è da diversi anni, delle onde d'urto ha un ruolo essenziale. Devo dire da chirurgo che tratto chirurgicamente la minor parte delle calcificazioni che vedo, ne vedo una quantità veramente notevolissima, le mando dei riabilitatori e loro hanno un successo. Magari la calcificazione non scompare, però funzionalmente il paziente è insomma, contento. Dottor Melegatti, sulle calcificazioni andate forte. Sì, assolutamente sì, sì, siamo meno aggressivi, le onde d'urto ci permettono di risolvere nella maggior parte dei casi, abbiamo una percentuale, possiamo parlare tra il 75 e l'80% dei casi di risoluzione addirittura della calcificazione. Non è detto che la calcificazione sia di per sé la fonte del dolore, la causa del dolore è il tendine che viene appesantito da questa massa al suo interno, e certo è che se noi alleggeriamo il tendine diminuendo la calcificazione, questo tendine più facilmente va incontro a guarigione, si disinfiamma più facilmente. Senta, però quando parliamo di onde d'urto, e con lei lo facciamo spesso, molti ascoltatori, e sono arrivati puntuali i loro messaggi, ci dicono che le onde d'urto sono dolorose, soprattutto alla spalla. Bisogna sfatare questo mito, questo non è così. Dovrò provarle una non di queste così. Volte. Le onde d'urto sono dolorose quando, per certi pazienti addirittura intollerabili, quando vengono effettuate da apparecchiature non congrue e quando vengono effettuate da personale non esperto, non attento al trattamento. Certo, c'è di meglio da fare che sottoporsi al trattamento di onde d'urto, però non devono essere così dolorose come riferiscono i pazienti. Un pochettino di dolore, ma assolutamente ben tollerato. Lei mi autorizza a dire se il dolore è sopportabile, restate, se il dolore eccessivo cambiate operatore macchina, scappate? Fatelo presente, non deve essere un dolore insopportabile, certi pazienti veramente riferiscono un dolore intollerabile, questo non può e non deve essere. Dottor Leo, lei le ha mai provate le onde d'urto su di sé? Personalmente no, anch'io faccio parte della categoria dei pazienti interessati. Quando avrò problematica sicuramente una valida terapia. Volevo aggiungere a quanto giustamente dice il dottor Melegatti che una causa di dolore che il paziente può lamentare è una sbagliata indicazione. Abbiamo accennato prima una lesione strutturale uno dei tendini della cuffia, magari non vista all'ecografia, dove c'è magari una piccola calcificazione, gli facciamo le onde d'urto ma il tendine è rotto, il paziente sta peggio, ma molto peggio, e ci dice io non guarisco, sto peggio, e lì in quel caso bisogna capire perché, fare una risonanza. Ecco, e voi dite di solito no, prosegua, no, generalmente cerchiamo di capire perché sta peggio, generalmente si spera. Questa era una puntualizzazione veramente opportuna, perché effettivamente l'indicazione alla terapia la davo per scontato, ma non bisogna dare nulla per scontato. Fatto bene Roberto a ricordare. Ecco, e quindi sono gli esami che fanno l'indicazione chiarezza. Deve essere precisa, quindi gli esami devono essere appropriati e la visita clinica deve essere appropriata. Io devo dire che sono molto emozionata. Il dottor Melegatti è abituato perché lui è responsabile dello staff medico, però in linea con noi abbiamo Sergio Parisse. Ciao Sergio. Buongiorno a tutti. Sergio è qui perché giocando a rugby e ottenendo i risultati è il capitano della nostra nazionale. Cioè, non solo, non è uno dei migliori giocatori del mondo. Direi ciao Sergio. Grazie mille. Possiamo dire il migliore? Nel suo ruolo secondo me può essere considerato così. Grazie, siete troppo gentili, grazie. È la verità. Senti Sergio, ci racconti della tua spalla che ti ha dato un po' di problemi? Beh sì, mi è capitato nel 2005, purtroppo giocando a rugby noi siamo molto esposti soprattutto ai colpi e soprattutto alle spalle, sono veramente molto, molto sollecitate nel nostro sport e sì, purtroppo su un placcaggio mi è andato un po' fuori l'acromio, ho avuto una lussazione di terzo grado dell'acromio, quindi sì, a parte il dolore è stata una lesione un po' importante, perché comunque ci ho messo 5 settimane per poter rientrare a giocare, e è stata una lesione dove non ho subito nessun tipo di intervento, però ho dovuto lavorare i primi giorni, ho dovuto fasciare la spalla per cercare di abbassare l'acromio, cercare di abbassare un po' questo acromio che era salito su da questo colpo, e niente, dopo fare tanti esercizi di riabilitazione per cercare di stabilizzare bene la spalla, lavorare i rotatori, i extrarotatori, i muscoli, per cercare di abbassare il più possibile questo acromio, anche se devo dire che comunque il acromio è stato un pochettino alto, ma è un po' un segno di tutti i rugbisti, Sergio. E in effetti di notte ti capita magari di avere un po' di dolore quando dormi su quella spalla, mi dicevi? Pronto? Hai male di notte, diceva il dottor Melegatti ogni tanto. Pronto? Non sento niente. Essere e benessere. Ci siamo tornati ed è tornato anche Sergio Parisse, che abbiamo recuperato. Sergio, eccomi. No, perché lasciarsi scappare, no, no, un campione, no, non si può. Poi, guarda, non voglio dirti che cosa succede dietro il vetro, ma una lussazione importante, dottor Melegatti. Sì. Ma è solo un campione come lui che riesce a sopportarle, a recuperare. È proprio da umani. Voglio dire, ci vuole tanta applicazione e tanta rieducazione e tanta forza di volontà per recuperare da una lussazione di terzo grado e ritornare a dei livelli così alti. Per cui è vero che c'è adesso, come diceva Roberto, la tendenza a non operare più queste lussazioni, però insomma, voglio dire, Sergio ha fatto un buon lavoro con la sua spalla. Grazie. Sicuramente noi giocatori ce la mettiamo sempre tutta per recuperare sempre al massimo e cercare di avere anche una spalla e anche gli altri infortuni, cercare di rientrare al massimo. Ma è vero che anche sono rientrato a giocare, comunque avevo la spalla che avevo un po' male, quindi c'è sempre un po' di sopportazione, un po' di dolore quando si rientra da un infortunio, però niente, penso che chi recuperi è tutta la fase di recupero è fatta in maniera molto buona, dopo soprattutto quando si ha dietro uno staff veramente molto buono, organizzato, le cose diventano molto molto molto più facili. Allora, io ringrazio Sergio per essere stato con noi, gli faccio già un invito a tornare però in studio, con il piacere di tutte le redattrici di Radio 24, perché vogliamo proprio dedicare un'intera puntata al rugby. L'invito lo rivolgo naturalmente anche al dottor Melegatti, e presto spero di avere quindi Sergio in studio con noi. Intanto grazie e auguri. Prego, grazie Sergio. Ciao Sergio. Andiamo a Diego, che ci chiama da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno. Diego, certo che dopo Sergio Parisse la sua uno si sente un po' con la spalla. Però io sono proprio, diciamo, caso fosse simile, ma situazione completamente diversa. Perché io un 15 anni fa fuori uscita la spalla mentre facevo le croci su panca con 20 kg per braccio. E la spalla sinistra, diciamo, è rimasta un po' a terra, il braccio sinistro è rimasto un po' a terra. E la spalla è rientrata da sola, diciamo, facendo un piccolo movimento. Sono rimasto poi fermo per circa 3 mesi e poi ho ripreso a fare pesi normalmente, diciamo, sì, sempre però con un po' di dolore, con scricchiolie. Adesso, quindi, a distanza di 15 anni, ho un bimbetto che pesa circa 6. Con il braccio destro lo posso tenere per ore, con il sinistro non vado oltre il quarto d'ora. Ora vorrei sapere. Sì, bisogna cambiare ogni tanto questo braccio, Diego. Adesso sentiamo un po' il dottor Leo che cosa dice. Vabbè, tanto il pupo cresce e non ha bisogno di essere tenuto in braccio per delle ore, ma siamo di fronte a un solo episodio, ci sembra di capire, di lussazione, con quello che non possiamo definire un trauma, perché un esercizio in palestra, pur se con sovraccarico, per noi non è un trauma. Probabilmente la posizione non era corretta e probabilmente anche, bisogna dire, c'era magari una predisposizione costituzionale, mi spiego, una spalla magari iperlassa che ha, diciamo, retto meno la posizione probabilmente errata in cui faceva l'esercizio. Il fatto che nei 10 anni successivi non abbia più avuto un episodio di lussazione ci fa pensare che la spalla non sia attualmente instabile, ha dolore. Beh, a dolore qui è, il ruolo è del riabilitatore, ancora una volta diamo importanza al riabilitatore perché probabilmente è scompensata dal punto di vista muscolare e quindi bisogna ritornare a dare a questa spalla un compenso dal punto di vista riabilitativo. Con una riabilitazione mirata. Esatto, e a proposito della spalla nessun termine è più calzante, nel senso che la rieducazione deve essere veramente mirata al recupero della stabilità, ma non solamente della spalla, ma anche al recupero del normale movimento della scapola. Molto spesso quando abbiamo una patologia o di instabilità o di dolore abbiamo i muscoli della scapola intorno, sì, alla scapola, che non sono più in grado, per motivo biomeccanico, di lavorare in maniera sincrona rispetto all'altra scapola. E quindi tutto il movimento del braccio non è più armonico e quindi dobbiamo lavorare in maniera selettiva non solo alla spalla ma anche alla scapola. Andiamo a Carmen che ci chiama da Como. Carmen, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io 2 anni fa ho subito sono stata operata di acromioplastica e a distanza di 2 anni sono stata operata 2 mesi fa della cuffia dei rotatori che si è rotta. Io faccio il lavoro dentro una struttura per anziani, quindi può capire un attimino, certo, il lavoro che faccio. Ecco, io quello che volevo chiedere, come mai mi sento ancora il dolore? Dottor Leo, è un accanimento questo del dolore? È un accanimento del dolore, se ho ben capito sono 2 mesi, quindi 2 mesi non è un periodo sufficiente per potersi innanzitutto preoccupare, bisogna insistere con la riabilitazione, ci può essere un dolore, non abbiamo dubbi che l'intervento sarà stato fatto tecnicamente in modo corretto, quindi i tendini reinseriti, questo il suo chirurgo glielo dovrebbe aver detto che tipo di danno ha trovato e che cosa ha fatto, quindi fiducia nella qualità dell'intervento fatto e riabilitazione. Esatto, dottor Melegatti, anche dopo l'intervento alla spalla soprattutto. Certo. Adesso porto il dottor Leo e il dottor Melegatti a conoscere la signora Laura Tonatto, che è creatrice di profumi, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. E con lei entriamo nell'atmosfera del Natale. Ieri sono arrivate diverse mail che commentavano appunto l'incenso e la mirra, e è piaciuto molto il suo intervento, e quindi un altro profumo per il nostro Natale. Beh, oggi la grande tradizione anglosassone: cannella, arancio, chiodi di garofano e la mela. Questi sono proprio i profumi che in tutti i paesi anglosassoni parlano del Natale, e noi anche siamo abituati ad utilizzare queste tonalità. E pensate per esempio ai pomander, queste arance incise dai chiodi di garofano. Che sono profumate e decorative. Assolutamente, perché non marciscono, perché nel chiodo di garofano c'è l'eugenolo, che è questa sostanza che utilizzano anche i dentisti per anestetizzare. E allora un consiglio, quando vogliamo mettere nell'atmosfera della nostra casa queste tonalità, facciamo semplicemente bollire in pochissima acqua le scorzette tagliate a cubetti dell'arancia, dei chiodi di garofano, un po' di cannella, e magicamente questi profumi, oltre a profumare con questa atmosfera natalizia la nostra casa, elimineranno totalmente gli odori di cucina, quindi di fritto ma anche di fumo, e quando cuciniamo il pesce, quando insomma abbiamo queste tonalità poco gradevoli. Magnifico. E quindi in un po' d'acqua, cannella, chiodi di garofano, scorzette d'arancia. Signora Tonatto, noi ci sentiamo domani, intanto passo la ricetta anche al dottor Melegatti, che così profuma anche casa sua. Assolutamente. Grazie dottor Leo per essere stato con noi, buona giornata a voi, e noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Grazie.